Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo dell'esordio nella narrativa di un grande esperto di cinema e comunicazione, Gianni Canova, che si misura con un noir, si intitola Palpebre, pubblicato da Garzanti, 232 pagine, 16,60 €. E qui il noir è veramente noir, infatti la copertina del libro parla di un thriller fulminante, estremo e definitivo. Siamo a Milano, nella Milano di oggi, tra l'altro uno dei protagonisti involontari naturalmente di questo libro è proprio questa radio, Radio 24, che viene spesso citata e spesso ascoltata. La Milano di oggi dunque alle prese con una banda che asseconda i voyeur della rete e per fare questo compie i misfatti più orrendi. I lettori più sensibili si astengano dalla lettura del libro, soprattutto per il finale che è veramente splatter. Ma l'interesse principale del libro sta sicuramente nel tema che solleva. Questo voyeurismo è davvero così diffuso e così disumanizzante? Lo chiediamo all'autore. Buongiorno a Gianni Canova. Buongiorno a tutti. Professor Canova, in questo libro lei alza il velo su una realtà anche di voyeurismo, di perversione sulla rete che fa molto impensierire. Insomma, la rete è così mal frequentata? Ci sono segnali abbastanza allarmanti. Ci sono anche delle ricerche in corso a livello mondiale che ci dicono come la rete stia diventando in qualche modo, uso una metafora un po' greve, ma insomma la pattumiera dell'umano, nel senso che tutto ciò che in passato era nascosto, era tenuto in qualche modo con cautela nel buio, lì affiora e viene fuori. E viene fuori una realtà che a me fa molta impressione, mi porta a interrogarmi insomma su quali siano i confini dell'umano. È vero che veniamo da un secolo terribile che ha alle spalle i gulag, i lager, l'olocausto, abbiamo alle spalle, come dire, una dimensione dell'umano che ha frequentato l'orrore, però la rete sta davvero portando la capacità di produrre e consumare orrore a livelli precedentemente inimmaginabili. E questo da cittadino e da educatore mi preoccupa molto. Palpebre vuole essere anche per certi versi, con la metafora che cerca di raccontare, un piccolo segnale d'allarme rispetto a una realtà che potrebbe diventare ancora più preoccupante. E per questo obiettivo lei si è votato per la prima volta alla narrativa. Che impressione le ha fatto passare dallo scrivere saggi, dal commentare immagini su tanti mezzi, allo scrivere un romanzo? Ma mi ha generato innanzitutto un piacere straordinario, mi ha fatto riscoprire il piacere di scrivere, che avevo un po' dimenticato. Il piacere e la fatica, perché poi la scrittura è un'operazione che si fa in assoluta solitudine, mentre tutti gli altri lavori che io faccio nella vita sono lavori di grande socialità. La scrittura si pratica da solo, è un esercizio un po' monacale, che alla fine però ripaga con un piacere immenso. Devo dire che mi sono allenato a lungo perché, pur non essendo io giovane, ho una figlia di pochi anni e da molto tempo tutte le sere le racconto delle fiabe prima che lei si addormenti, e questo esercizio, questa palestra quotidiana mi ha fatto ritrovare una sorta di età dell'innocenza di fronte alla narrativa, una sorta di stupore di fronte al racconto, e questo piacere del raccontare mi ha fatto venire voglia di scrivere una favola nera, che non racconterei mai a mia figlia ovviamente, che è tutto lo speriamo. Posto che racconto a mia figlia, ma il piacere del racconto è quello lì. Lei scrive nel suo libro che il piacere di scrivere oscilla tra la smania di finire in fretta queste storie, il desiderio segreto che non finiscano mai. Ecco, cosa prevale nello scrittore? Il gusto di affidarsi alla scrittura o di concludere poi la narrazione? La cosa bella è che si viaggia sempre in bilico fra queste due dimensioni. Io ricordo quando ero alla fine dell'ultima stesura, non vedevo l'ora di finire, ma ero anche preoccupato dall'idea che una volta finita la storia quei personaggi mi mancassero. Ricordo ancora nitidamente quando ho scritto la pagina in cui una delle protagoniste, uno dei personaggi femminili muore, io ero triste come se fosse venuto meno un animale domestico, insomma c'era una sorta di mancanza affettiva. Lo scrittore si affeziona ai suoi personaggi, e se il romanzo, come dire, funziona, lo stesso meccanismo si riproduce anche coi lettori. le reazioni che ho da parte dei lettori che mi scrivono davvero in tantissimi via mail, mi dicono il libro si divora, qualcuno mi maledice, mi dice l'ho iniziato ieri sera, mi hai fatto fare l'alba perché non sono riuscito a smettere, dopodiché qualcuno alla fine sente addosso uno strano disagio, qualcun altro ha il vuoto che sempre si ha quando ci si era affezionati a dei personaggi e questi personaggi hanno finito la loro esistenza narrativa. Bene, grazie allora Gianni Canova, autore di Palpebre. Grazie a tutti, buona giornata. Buona domenica. Un altro genere di narrativa troviamo nel libro di un altro autore italiano, Giulio Mozzi. Si intitola Sono l'ultimo a scendere e altre storie credibili. È pubblicato da Mondadori, 270 pagine, 18,50 euro. Questa è una implacabile dissezione della società italiana in una serie di brevissimi racconti, spesso degli autentici flash a dialogo, quasi degli appunti scritti tra il 30 maggio del 2003 e il 29 agosto del 2003, che assume le vesti di un vero e proprio diario pubblico, come lo definisce l'autore, basato su una quotidianità fatta di ripetizione e banalità, parole dell'autore, che assumono però un carattere esemplare per capire l'umanità che ci sta intorno. L'autore è spesso in treno, dove spesso trova il proprio posto occupato e si imbatte in vari generi di persone, presentate sempre con ironia, spesso anche con un pizzico di crudeltà e anche di freddezza. Per esempio la signora che rimprovera Mozzi per il delitto che sta commettendo, che forse molti di voi pure ritengono un delitto, e cioè buttare, sia pure nella raccolta differenziata, dei libri. Sentite l'accenno a questo dialogo fra l'ignaro scrittore e la scandalizzata osservatrice. Ma che cosa fa? Mi volto. La voce appartiene a una signora con pelliccia e cagnolino. Sono le 4 del pomeriggio. Io sono all'angolo tra la via dove abito e la piazza. Ho davanti a me un carrello pieno di libri. Ho alla mia destra la campana gialla per la raccolta differenziata, la campana per la carta. Sto buttando via libri. Guardo la signora. E dico, sto buttando via della carta. Non è vero. Guardo i 3 libri che ho in mano. Guardo la signora. Mi dica. Lei sta buttando via dei libri. Sì, sto buttando via dei libri. Non si buttano via i libri. Sto buttando via dei brutti libri. Non c'entra. I libri sono libri, i libri sono cultura. I libri non si buttano via. Ed io respiro a fondo. Signora, non creda che io non dia valore alla letteratura, alla scienza, alla spiritualità e a tutto ciò che si trasmette per mezzo dei libri. Ma le assicuro che ho preso la decisione di buttare via questi libri perché sono libri che non hanno alcun valore, né letterario, né scientifico, né spirituale. Non è esattamente così, ma penso che possa andare. Non dica sciocchezze. Un libro è sempre un libro. Sì, signora. E anche la televisione è sempre la televisione. Che c'entra? Anche in televisione può capitare di vedere un programma intelligente. Allo stesso modo può capitare di leggere un libro stupido. Non cambi discorso. Non cambio discorso. Voglio dire che lei non ha idea di cosa siano i libri che sto buttando via. E quindi lei non può sindacare su ciò che sto facendo. Io so quello che dico. Lei sta compiendo un crimine contro la cultura. Lei è uno sciagurato. Mi viene un dubbio. Dico, signora, li vuole lei questi libri? No. Dice inorridita. Fa addirittura un passo indietro. Ecco bene, dico. E per sottolineare che considero chiusa la questione, butto finalmente nella campana i 3 libri che ho in mano da 2 minuti. Restiamo nel genere del thriller, più che del noir, in questo caso di un thriller storico, e ci porta infatti al Venerdì Santo del 1592, il libro di Kenneth Wisnia, che è uno scrittore americano particolarmente esperto di cultura ebraica, che si intitola Il Quinto Servitore, pubblicato da Longanesi, 492 pagine, 19,60 euro, tradotto da Elisabetta Valdré. In questo libro siamo a Praga, alla fine del Cinquecento, dunque nel bel mezzo di una delle periodiche sollevazioni contro gli ebrei accusati molto frequentemente di omicidi rituali. Qui ce n'è uno che si verifica appunto il Venerdì Santo, come vittima è una bambina, e questo naturalmente solleva lo sdegno pilotato della popolazione, e quindi la comunità ebrea, per mettersi in salvo, deve affidarsi al lavoro di un ragazzo che in 3 giorni dovrà risolvere appunto questo delitto, dovrà capire di che cosa si è trattato per evitare evitare la distruzione completa del ghetto di Praga. E in questo libro abbiamo una bella ricostruzione di quell'epoca, supportata anche da una conoscenza approfondita della cultura e delle tradizioni ebraiche. Restiamo in ambito storico con un libro che ci riporta anche un po' al clima di Alice nel Paese delle Meraviglie. Infatti qui c'è una ragazza dodicenne che, toccando la superficie di un quadro, entra in un'altra dimensione. È la protagonista del libro Il segreto di Lidia, un'avventura d'arte e di magia di Finn Zetterholm, pubblicato da Salani, 352 pagine, 16 euro, e tradotto da Katia De Marco. L'autore appartiene a un filone fortunato, ormai è popolare anche in Italia, quello della letteratura nordica, in particolare della letteratura svedese. Nel suo paese questo libro ha avuto molto successo. Si parla qua di una ragazzina che, appunto, toccando la superficie di un quadro, entra nell'epoca dei pittori di quel quadro, che incontreremo da Rembrandt a Dalì. Sentiamo per esempio qualche riga dal libro sull'incontro con il grande pittore Velázquez. Un'enorme tela era posata a terra accanto alla principessa, dietro alla quale stava in piedi un uomo alto, con un lungo pennello in mano e una tavolozza nell'altra. L'uomo aveva dei sottili baffetti neri e i capelli scuri, che gli arrivavano fin sulle spalle. Era vestito di nero e aveva l'espressione seria e distinta. Osservava la principessa con la testa inclinata da un lato e Lidia capì che le stava facendo il ritratto. All'altra estremità della sala c'erano un uomo e una donna in abiti sontuosi ed eleganti. Avevano l'aria così distinta e altera che non c'era nessun dubbio su chi fossero: il re e la regina di Spagna. La regina aveva la testa coperta da una mantiglia bianca e teneva in mano un ventaglio ricamato. Lidia riconobbe la scena. L'aveva già vista ed era quello che la meravigliava tanto. Era un quadro di uno dei libri del nonno, quello sui musei d'Europa. Si chiamava Le Damigelle e lei c'era finita dritta in mezzo. Il quadro che l'uomo dai capelli neri stava dipingendo proprio in quel momento. Lidia sapeva anche come si chiamava: Diego Velázquez. Ultimi arrivi. Questa è una nuova finestra in questo appuntamento sui libri, dedicato proprio alle ultime novità apparse in questi giorni sugli scaffali, sulle quali poi magari potremo ritornare. Questa settimana vi segnalo il libro di Rohan Johnson, Prove di felicità a Roma Est, pubblicato da Einaudi. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, ci avviciniamo a Pasqua e vi segnalo in questa occasione gli ultimi due titoli di una firma particolarmente nota soprattutto ai lettori del Sole 24 Ore e del Supplemento La Domenica, cioè Monsignor Gianfranco Ravasi, attuale ministro della cultura del Papa, o come si dice ufficialmente nei Sacri Palazzi, presidente della Pontificia Commissione della Cultura e delle Pontificie Commissioni per i Beni Culturali della Chiesa e di Archeologia Sacra. Di Monsignor Ravasi sono usciti due libri recenti: il primo è 500 curiosità della fede, pubblicato da Mondadori, 324 pagine, 19 euro. Ravasi definisce così il percorso tra le voci di questo che può essere letto anche come un vero e proprio dizionario. Parla di un reticolo di viuzze, di stradine, di anfratti che pure appartengono al territorio della teologia. Si tratta, continua, di una folla di parole, di denominazioni, di categorie, di simboli che per buona parte il lettore di oggi ignora, eppure esse hanno alimentato per secoli il pensiero, l'immaginazione e l'arte dell'Occidente. Quindi, come capite, ogni voce apre degli squarci anche sulla cultura religiosa, che poi è alla base di tante espressioni artistiche e culturali non necessariamente di tipo religioso o ecclesiastico. E quindi troviamo qua delle voci tradizionali che fissano i paletti della dottrina cristiana, da anima, battesimo, fede, grazia, incarnazione, miracolo, trinità, verità, a tante altre voci, talune brevissime, che sono tutte in grado di farci capire molte pagine, appunto, delle scritture o molti aspetti della cultura religiosa, non soltanto cristiana ma anche ebraica. Per esempio, sentiamo dal libro di Monsignor Ravasi che cosa significa, appunto, il termine Pasqua, la festa che cadrà domenica prossima. Deriva dall'ebraico pesà, termine variamente interpretato: oltrepassare, colpire. È riferito a una festa ebraica di origine nomadica. Il rituale dell'agnello arrostito intatto nella sua ossatura, il sangue asperso sulle tende, il bastone da viaggio e i pani azimi rimandano appunto a una cerimonia pastorale di transumanza. Per Israele, invece, sarà la festa storica della liberazione dall'oppressione e dal male. L'altro libro di Monsignor Ravasi è I Vangeli del Dio con noi, è pubblicato da Paoline, 186 pagine, 15 euro, che è invece un libro sull'altro grande polo della vita di Gesù rispetto alla risurrezione, cioè dalla sua nascita. Ravasi qui presenta e commenta le poche ma significative pagine dei Vangeli di Matteo e di Luca che si riferiscono appunto all'infanzia di Gesù. Le riflessioni di Ravasi quindi ci indirizzano anche a molti luoghi di questa infanzia, ai monumenti che sono sorti su questi luoghi e che ancora oggi possiamo ammirare con curiosità se non con devozione. Un viaggio diverso invece è quello compiuto da Riccardo Chiaberge con il libro Lo scisma, cattolici senza papa. Questo è pubblicato da Longanesi, 296 pagine, 17,60 euro. Questo è un viaggio nel malessere della Chiesa o di un certo pezzo della Chiesa, un viaggio che Chiaberge naturalmente compie da laico che riconosce l'importanza che la religione rappresenta e che merita non tanto una contestazione quanto un'analisi critica, soprattutto alla luce di quello che Chiaberge giudica un profilo sempre più aggressivo della Chiesa, che gioca a tutto campo, scrive, come un gruppo di pressione politica sul piano interno e internazionale. Invece di modernizzare il cattolicesimo, secondo Chiaberge, la Chiesa cerca di cattolicizzare la modernità. Ma la Chiesa, osserva Chiaberge, è tutt'altro che compatta intorno a questa posizione e l'autore vuole appunto dare voce ai dubbiosi, come li chiama lui, ai credenti indisciplinati, ai dissenzienti, e nasce da questa ambizione una serie di incontri in Italia e all'estero con personaggi che offrono punti di vista ben diversi da quelli ufficiali su molte questioni e sulle quali la posizione della Chiesa appare piuttosto rigida e intangibile. Fra questi protagonisti c'è un prete di cui abbiamo parlato recentemente, è già molto noto di suo, ma qualche settimana fa abbiamo ricordato i suoi 90 anni e il suo impegno a superare di molto questa già veneranda età, e cioè Don Luigi Verzé. Sentiamo l'approccio di Don Verzé a proposito dei temi scientifici. La doppia elica di Watson e Crick per Don Verzé non è semplicemente un puzzle di nucleotidi, una catena di formule chimiche, la scatola di montaggio della vita. È un percorso iniziatico, un ascensore che conduce all'assoluto. Chi ha inventato quell'acido nucleico estremamente tenue e regolarissimo, sì da contenere tutte le informazioni genetiche degli organismi viventi? Domanda il patron del San Raffaele. Ma ancora di più, chi ha dotato il cerebro umano di logica e sillogistica, sì da consentirgli di penetrare la verità di se stesso? Supereremo la nostra evoluzione di specie umana, non da specie a specie, ma nella specie, quando, in possesso di tutta la lettura del nostro genoma, avremo sull'uomo, sul corpo, sull'intelletto, sullo spirito. La verità tutta intera, l'ha detto Cristo, quella scritta nel nu dal nostro Creatore, che dal nulla ci ha sinotticamente generati dal suo sé, imprimendocene l'immagine. Un Dio biologo, un Dio neuroscienziato, il Dio di Don Luigi. Un Dio che proietta la sua luce con eguale generosità sulle cattedrali e sui laboratori, che non manda all'inferno i manipolatori di cellule, ma piuttosto i manipolatori di coscienze. Nulla e nessuno può fermare la ricerca, dice Verzé. Il conoscere è diritto e dovere come naturale aspirazione alla verità. La scienza l'ha creata il Signore e quindi non è mai contro la fede. Quando occorre, è la natura che si fa carico di ripristinare l'equilibrio violato, ribellandosi agli eccessi. Per concludere, Chiaberge parla di una spaccatura nel corpo mistico della Chiesa che gli fa adombrare la prospettiva che dà appunto nome al libro, e cioè appunto lo scisma. E quindi questo possiamo considerarlo un viaggio sicuramente interessante e stimolante per tutti, perché non è, come tiene a precisare l'autore, un pamphlet anticlericale, ma la dichiarazione di amore di un laico battezzato e cresimato per la religione dei suoi padri, per la straordinaria ricchezza e multiformità del mondo cattolico, inesauribile riserva di anime, intelligenze, di talenti e di ideali. Un libro quindi utile per conoscere una Chiesa meno nota che può offrire motivi di riflessione a tutti. Un viaggio per immagini nei luoghi della fede, non solo cristiana, è quello di Fernando Moieres, un fotografo basco, autore delle immagini di Uomini di Dio, un bel libro di Rizzoli, 256 pagine, 70 euro, un libro fotografico questo che ci presenta una serie di religiosi di tutte le fedi, con un'introduzione da parte di un abate benedettino, Pierre-François de Béthune, il quale nota come, al di là delle differenze tra le religioni, un'identica ricerca è presente in ognuna di esse. Scrive l'abate, i diversi credo hanno tuttavia preso troppo spesso direzioni opposte per quanto riguarda la concezione della verità e le loro pratiche, al punto da contrapporsi o addirittura escludersi a vicenda. Proprio per questo, continua, è così importante ricordare la comunione profonda a livello dell'antropologia spirituale che unisce gli esseri umani. Vivono tutti le stesse difficoltà con il proprio ego e le medesime aspirazioni di purezza e fraternità universale. Vi presento adesso due libri che ci fanno incontrare la figura di Gesù Cristo. Il primo è quello di Sandro Maier e Osvaldo Orlandini, che sono due giornalisti già abituati a scrivere a quattro mani opere di divulgazione, in particolare divulgazione religiosa. Questo libro si intitola La grande storia di Gesù, è pubblicato da Cairo, 414 pagine, 14 euro. Partendo dalle pagine note della narrazione evangelica, Maier e Orlandini ci raccontano la vita di Gesù inserendola nel quadro della società, della storia, dell'epoca in cui Gesù visse, e arricchendo questa vita con la descrizione e l'approfondimento di alcuni eventi laterali. Per esempio, le nozze di Cana diventano la cronaca non soltanto del primo miracolo di Gesù, ma la storia di un matrimonio normale, di un matrimonio quasi contemporaneo tra amici, che può dare occasione non soltanto al famoso miracolo, ma anche a un esempio di attenzione e di sensibilità verso tutte le creature viventi, a partire dagli animali. L'altro libro è quello di Silvia Vecchini, Rabbuni, è pubblicato da San Paolo, 346 pagine, 16 euro, dove troviamo Yeshua di Nazareth, figlio di Joseph, che si presenta in una dimensione umanissima che farà scoprire al protagonista Ari Gel, alla ricerca, come tanti in quell'epoca, del Messia, una particolare dimensione spirituale e religiosa. E quindi qui abbiamo, più che una vita di Gesù, la scoperta di questa nuova fonte di spiritualità che esplode in alcuni momenti, per esempio nell'evento che la Chiesa ricorda proprio oggi, e cioè la Domenica delle Palme, che così viene descritta nel libro di cui vi parlo. Incespicando su ciuffi d'erba e le radici degli ulivi, tornammo da Yeshua, che nel frattempo ci aveva quasi raggiunti. Yeshua vi montò. L'animale era buono e mansueto, ma Jacob e io lo aiutammo lo stesso a sistemarsi. Quando mi voltai, vidi che tra la gente molti avevano preso a strappare frasche di ulivi. Qualcuno si era arrampicato e aveva tagliato grossi rami di palma. Il verde brillante dei rami di palma, le foglie scure dell'ulivo strette nelle mani e alzate, ondeggiavano come il mare di Galilea sopra le nostre teste. Quando Yeshua, seduto sulla schiena dell'asina, si mosse verso la porta della città, scoppiò un canto tra le genti. «Oshiana! Oshiana! Salvaci! Salvaci! Benedetto colui che viene nel nome del Signore!» Eravamo tutti sorpresi e ci lasciammo trascinare da quella festa. Cantavamo. Le donne alzavano i bambini perché vedessero meglio. Procedevamo quasi ballando. Il nome di Yeshua era gridato da cima a fondo del corteo. E a questo punto, il confettino. Alle famiglie che visitano in questi giorni la mostra dedicata al grande pittore Eduard Hopper, ne abbiamo parlato precedentemente, a Roma. La mostra è in corso alla Fondazione Roma e dura fino al 13 giugno 2010. Alle famiglie che visitano questa mostra, dicevo, segnalo il libro di Barbara Conti, Hopper, La luce del sole sulle realtà, illustrato da Paolo Marabotto e pubblicato da Lapis, 6,50 euro, con testi, illustrazioni e giochi per accostarsi a questo grande pittore, a questa icona autentica della nostra modernità. E con questo ringrazio Vittorio Mussini in redazione e Peter Bescapè in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it. Vi ricordo che sul nostro sito www.radio24.it è possibile sempre riascoltare questa trasmissione. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.